Scusate un attimo, vorrei chiamare Monsignor Roger per dire alcune parole conclusive e ringraziarvi e ringraziarvi. Un attimo solo, e nessuno abbia paura, perché è solo una parola di congedo, detta per di più da uno che ha assistito con caldo e fervente interesse, ma un po' sempre dalla finestra, cioè guardando in un settore, in un campo che non è precisamente il suo. Ma se mi lasciate forse riassumere o esprimermi in una impressione che, salvo correzioni che tutti mi possono poi aiutare a fare, vero, come direttore dell'istituto, ecco, direi che più e più volte mi è venuto in mente di nuovo quel detto: Zurich zu Kant, torniamo a Kant, torniamo a Kant. E a proposito dei filosofi, l'ho sentito esemplificato in maniera molto convincente, no? Non per sostituire il pensiero che ognuno porta avanti, ma per misurarsi a una pietra di paragone, con un raffronto che mi sembra ricco di stimoli quanto mai. Altrettanto per i teologi, e Antise vi ha già ricordato che è la festa liturgica di San Tommaso, che non è più il 7 di marzo, ma è invece nella data odierna, nella liturgia riformata, qualcosa significhi anche questo fatto, certamente anche per i teologi, che stimolati da questo confronto Zurich zu Kant, forse è ora che approfondiscano certi concetti, in particolare rivelazione. È proprio tutto così chiaro, distinto e completo e adeguato, quello che in termini un po' spiccioli, o vari discusso, meglio approfondito anche questo concetto fondamentale, no? Il Concilio Vaticano II non a caso ha fatto una costituzione intera di rivelazione, che certo è molto diversa da ciò che sulla fede ha detto il Vaticano I. Altrettanto dicasi della fede, cosa che tutti suppongono chiaramente definita, ma che credo, ecco, il raffronto Zurich zu Kant per i teologi dovrebbe aiutare a approfondire, proprio per riportarla nelle dimensioni dell'oggi. Detto questo, auguro a tutti un buon ritorno a casa in pace e mi auguro di ritrovarci ancora per incontri come questo odierno.